se si pensa che il formaggio deve essere pecorino e il miele è possibilmente amaro, allora si capisce perché le cebada si possono mangiare solo da noi e che si tratta di un prodotto linguistico, è proprio il caso di dirlo, che nasce in Sardegna. Ma ciò che fa davvero speciali le cebadas non è tanto l'uso dei prodotti locali, così speciali anch'esse, bensì il modo in cui si aggregano le parti, come dicevo prima, e il mettere assieme parti così distanti fra loro come il miele e il formaggio e farne oggetti semiologici che parlano in sardo. Ce ne sono altri di oggetti semiologici che parlano in altre lingue, si capisce, il pesto che parla la genovese. Anche lì il basilico deve essere speciale, di foglia piccola e che non sappia, per carità, di menta, così lo trovi solo in Liguria. Le orecchiette, che parlano in barese, e la bruschetta, che parla in romanesco. E questo lo dico per dire che quando un oggetto semiologico è ben tenuto nella sua struttura e tutte le parti si organizzano in maniera originale, non c'è bisogno di affermarlo con decreti regionali. Si vede e basta. Ora, miei attenti radioutenti, dovrei passare alle specialità artistiche sarde, ma non vorrei aver messo alla prova la vostra resistenza, perciò forse è meglio prendere un po' di fiato con una piccola interruzione musicale. Avete quasi finito di ascoltare un altro brano di Franco Madau dal suo nuovo LP, non ancora in circolazione, Sreva Mala, ed è la voce di Tonino Casula quella che vi ha fornito questa fondamentale informazione, la voce di Tonino Casula che si sforza di intrattenervi, anzi di trattenervi amabilmente, si capisce molto amabilmente, su problemi di varia natura e spessore culturale. Mi sto impelagando in un pastrocchio pericoloso che susciterà il disappunto di qualche brontosardo intollerante, di quelli che tengono molto ai certificati di identità e alle radici. Stiamo analizzando, servendoci delle cebadas, quali potrebbero essere, sempre che esistano, gli elementi di specialità che dovrebbero differenziare gli artisti sardi dagli artisti del resto del mondo. Ma prima di arrivare alle specialità artistiche, dovremmo fare un altro passo sempre in compagnia delle cebadas.